Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Mighty FM. Chi vi parla dagli studi di Radio Città Fujiko è sempre Claudia Mighty Mau. Per questa nuova puntata abbiamo ripreso con una cadenza quindicinale le nostre trasmissioni, un po' per recuperare il periodo di inattività, e come abbiamo già scritto nella nostra pubblicità, diciamo, promozionale sui social, rimaniamo in terra d'Albione come in passato. In realtà mi rendo conto che tutti i tre artisti su cui abbiamo fatto trasmissioni sono tutti anglosassoni, britannici, e questa sera parliamo di Samuel Eastgate, conosciuto anche con uno dei suoi alias come Sam Dust, che dopo una carriera iniziata diversi anni fa adesso ha assunto il suo nome come La Priest, LA maiuscolo Priest, non LA ma La con l'H, Priest, e partiamo con il pezzo di apertura del suo album di cui parliamo stasera. L'album si chiama Jean e questo pezzo, essendo il primo, si chiama Beginning. Che viene subito in mente è quello di David Byrne per il modo di cantare, per anche il tipo di ritmo e anche la strumentazione. Un pop sperimentale, sghembo, come piace a noi, che si basa su questa chitarrina spesso funk, per questo che è un pezzo che risale a tipo al 2007, quando Sam era ancora minorenne, ma aveva già formato nel 2004, consideriamo che adesso ha tipo 31-32 anni, quindi nel 2004 era molto giovane. Aveva fondato la sua band a Castle Donington, nel Leicestershire, cittadina famosa per un festival metal, capisco anche perché, si sente un po' questa influenza nei suoni della sua prima band, con cui hanno fatto piuttosto successo nel 2008, erano i Late of the Pier. E questa, in versione a doppia velocità molto molto elettronica, era il pezzo che loro suonavano alla ricerca di un contratto discografico. E che finalmente è stata completata in questa forma per questo disco, con l'aiuto di Jean, ovvero protagonista del disco è questo marchingegno, questo macchinario costruito da Sam Dust, ovvero una drum machine dal nome Jean. Per questo primo pezzo, Beginning, del disco, che è anche il pezzo più pop, diciamo che c'è una progressione dal primo pezzo fino all'ultimo, che va sempre più nello sperimentale, nell'astratto, forse anche nell'inconcludente. Ma in realtà questo pseudonimo di La Priest esisteva contemporaneamente al debutto discografico The Late of the Peer nel 2007-2008, tant'è vero che appunto la prima release con questo nome, Sam, la fa nel 2007 grazie alla conoscenza, al sodalizio che dura tuttora, essendo il coproduttore anche dell'ultimo disco, con Errol Alkan, DJ produttore, enfant prodige della scena anglosassone, fondatore della Fantasy Records, la sua etichetta, ed è per questa etichetta che Sam registra questo pezzo che si chiama Engine nel 2007 e che ovviamente contiene un remix ad opera di Errol Alkan, Errol Alkan's Transonic Re-Edit, che ci abbiamo giustamente attaccato. Remix di Errol Alkan. Era un'epoca in cui la musica indie era eccitante, era effervescente, c'era questa crescente commistione con il dance floor, erano gli anni dei Klaxons, fondamentalmente diciamo come araldi della scena, che poi anche questa è un'etichetta creata dai media, della cosiddetta New Rave, in cui sono stati inseriti anche i Late of the Peer, che in realtà erano molto altro e anche molto schizofrenici, e Sam dice per noi era ragione d'orgoglio, cioè come una medaglia il fatto che ci definissero così. E anche quindi l'epoca dei remix dei Too Many DJs. E dicevamo, il sodalizio con Errol Alkan continua anche per la coproduzione di questo ultimo Gin, uscito il 5 giugno, tra l'altro come il disco di Westerman di cui abbiamo parlato due settimane fa, uscito per la Domino Records. E la passione per la musica, insomma, questa precocità musicale di Sam era dovuta al fatto che lui dice: mio padre aveva un sacco di strumenti, c'erano dei synth proprio buttati lì tipo dietro alle credenze, c'erano questi strumenti, io ero molto curioso e quindi mio padre, vedendo la mia curiosità, mi ha cominciato a spiegare un po' come funzionavano. Per questo lui ha sviluppato questo interesse, curiosità, desiderio di costruire cose senza una propria vera e propria formazione tecnica, ma proprio sperimentando. Lui dice: io ficco dei cacciavite dentro delle cose finché non fanno dei suoni strani che mi piacciono. Ed ecco un collage di alcuni dei pezzi migliori del debutto The Late of the Pier Fantasy Black Channel, e questa prima è Space in the Woods, il primo singolo. Singolo di debutto nel 2007, l'album Fantasy Black Channel esce invece nell'agosto 2008. Il mio incontro, un ascolto folgorante alla FNAC di Madrid nel novembre di quell'anno. E questo è il secondo pezzo, Heartbeat. Questo pezzo, questo modo di cantare strano che ricorda il post-punk, la new wave, ricorda i Japan, ricorda anche poi i primissimi Duran Duran. E già il secondo singolo, prima dell'uscita dell'album, viene prodotto da Errol Alkan, come quindi anche l'album. Il più grande remixer di quell'era musicale. E questo terzo è Fokker. Però a differenza di altri gruppi, i Late of the Pier erano abbastanza di culto. Infatti io ho sviluppato un'enorme passione e anche tanta anticipation per qualsiasi cosa facessero successivamente, ma non hanno più fatto niente se non un doppio singolo nel 2010, sempre con Alkan. È stata l'ultima volta che si sono trovati in studio insieme prima del 2018-19 per la lavorazione di questo Gene. però appunto non mi ricordo che fossero particolarmente conosciuti da altri. E da allora appunto si è creata questa sintonia tra i due. E adesso infatti torniamo a quello che è stato il terzo video, quindi il terzo pezzo ufficialmente diffuso dall'album Gene. Beginning era il secondo a inizio maggio, questa invece dedicatissima Rubber Sky è stata diffusa alla vigilia dell'uscita dell'album, e in un'intervista Sam ha detto che attualmente insomma è il suo pezzo preferito. Cielo di gomma, e anche questo basso è così gommoso, rimbalzoso. Questo terzo pezzo video diffuso, invece Beginning, è stato il secondo, è molto particolare perché lui se ne va in giro per le lande del nord del Galles, quasi al confine con l'Inghilterra, dove lui si è stabilito da diverso tempo con sua moglie. In una situazione di isolamento, lui vaga con questo mantello e questo cappello a punta con una sfera in cima, abbastanza surreale, come in realtà appunto è un po' la sua musica e la sua idea di musica. Cioè, alla base di questo disco c'è Gene, 150 circuiti progettati e saldati a mano, su cui ha lavorato più o meno un anno. Si è anche un po' maledetto per averlo fatto, anche perché poi non si è limitato a fare quello che voleva fare all'inizio, ma poi ci ha aggiunto un sacco di altri ciappini. Perché il problema è che gli strumenti digitali, le drum machine classiche, sono troppo rigide, sono troppo precise, mentre lui voleva reintrodurre un elemento di errore, un elemento umano. Tant'è vero che nei pezzi si sentono anche un po' questi piccoli perdita di tempo o aumento di tempo, che lui ha capito che il macchinario si scalda e nel corso di una canzone magari il ritmo aumenta di 2 bpm. Ma dice è fighissimo, perché è proprio quello che un batterista vero fa suonando un pezzo, no? Lo velocizza leggerissimamente un po' per tenere su insomma l'energia del pezzo. Come Beginning, questo è uno dei pezzi più melodici, tra l'altro anche una canzone d'amore in cui dice: per te correrei all'indietro. Thank you. siamo tornati a Light of the Pier per un pezzo che meritava di essere ascoltato interamente, il secondo singolo. Anche qui Japan, sto basso alla McCarn. E questa batteria alla Cure. Ma è solo una delle idee di questo pezzo. Perché lui da ragazzino aveva sempre questa curiosità di dire: ok, questo pezzo va bene, ma poi cosa succede adesso? E quindi mettere tante idee diverse all'interno dello stesso pezzo. Poi diventa, non lo so, Led Zeppelin. E poi diventa una specie di time warp. Il pezzo comunque si chiama Bathroom Gargle. È veramente una delle perle di questo album. Quindi questa schizofrenia di fare, di passare sempre una cosa diversa, nuova, invece diciamo che Injin ha fatto un po' pace con questa cosa, per cui i pezzi al loro interno, perlomeno nella prima metà, perché c'è una differenza enorme tra la prima metà del disco e la seconda, come se appunto uno dice: ci sto dentro, faccio le cose in modo abbastanza tradizionale, classico, ma poco a poco prende il sopravvento invece la voglia di sperimentare e un po' di dare sfogo alle tendenze un po' più anticonvenzionali. Ma appunto l'esperienza di Light of the Pier dopo un ultimo singolo del 2010 si interrompe. Tra l'altro poi nel 2015, già giovanissimo, il batterista muore in circostanze tragiche. Ma appunto tra i gruppi di quell'epoca c'erano anche i Filthy Dukes. Che nel 2009 pubblicano Nonsense in the Dark, un album che anche questo mi è piaciuto molto, era anche l'epoca in cui io compravo una svagonata di CD, quindi ce l'ho. E uno dei singoli, This Rhythm, vede appunto la partecipazione alla voce di Sam Dust, Samuel Eastgate, la Priest. Ma la mia preferita di quest'album era un'altra canzone. E infatti, prevedibilmente, ce l'ho attaccata. Non mancava mai nei miei DJ set dell'epoca, che infatti mi è venuta voglia di rifarne uno con proprio i CD che mettevo in quegli anni lì, quando appunto la musica indie era molto molto vivace ed eccitante. Si tratta di You Better Stop. Quindi dopo la partecipazione nel disco dei Filthy Dukes nel 2010, Sam comincia a produrre anche per altri, oltre che per la sua band e per il suo primo singolo, perché appunto, come abbiamo detto e sentito poc'anzi, in mezzo ai primi due singoli nel 2007, Late of the Pier, insieme a Errol Alkan, pubblica il primo singolo Engine con questo pseudonimo La Priest, che trae origine dalle serate con i suoi amichetti a 15 anni, dove o fumavano o bevevano, e se ne venivano fuori con un sacco di stronzate, chissà, quando sei un po' bevuto e fatto e c'hai 15 anni, più sono stronzate più ti fanno ridere. E lui aveva un registratore e registrava le cose che venivano dette, e a un certo punto lui se ne esce fuori dicendo La Priest, forse al posto di L.A. Priest, un prete di Los Angeles. E l'ho detto, attenzione, se lo googlate vengono fuori delle cose truci, non fatelo. E un suo amico ha detto, ma è un nome fantastico per una band. E allora lui ha deciso di adottarlo, all'inizio scritto tutto in maiuscolo. E lui pensava, ah guarda che sfigati gli altri che hanno i nomi scritti in minuscolo, invece io tutto in maiuscolo. Ma dopo invece l'etichetta gli ha detto, no, lasciamo La in maiuscolo e Priest solo con l'iniziale in maiuscolo. Ma non è L.A., ma è La. ma il primo pezzo diffuso da questo album, con un video di animazione molto molto carino. Che si chiama What Moves, è anche un po' sempre un incedere da Talking Heads. Come appunto proprio un'influenza dichiarata è quella di David Byrne, uno si aspetterebbe di sentire un pezzo di David Byrne e Talking Heads? No. Perché? Perché non lo conosco abbastanza. Non, e quindi non c'era un pezzo particolare che mi potesse suggerire un'assonanza. Questo è un pezzo filosofico che si chiede cos'è che ti muove, cos'è che ti spinge a fare quello che fai. Questo, come si può sentire, è comunque un pezzo abbastanza classico come costruzione. E in questo disco Sam, oltre a cercare di seguire più o meno una struttura, sebbene insomma basato su questi suoni un po' strani prodotti dalla sua macchinetta, ha fatto anche pace con il suo ruolo di chitarrista, che lo sentiva un po' come un peso quando era nella sua band. Mentre adesso appunto fondamentalmente i pezzi sono tenuti su dalla chitarra, che dice poi è uno strumento fantastico, insomma la cosa più facile, più semplice come approccio. Per esempio, anche qui sembra che c'è stato tipo un errore. Ma appunto questo desiderio dell'errore, che sarebbe quello umano, ma in questo caso è fatto da una macchina che si vuole rendere più organica possibile. E questo è sempre stato un desiderio, cioè un'idea presente in Summer East Gate. Fin dal suo primo album di debutto nel 2015, ne parleremo più tardi. Forse lo chiamo anche un po' il momento Pino D'Angiò. Che idea, ma che idea. Questa coda strumentale che stiamo ascoltando in realtà è un altro pezzo vero e proprio che segue What Moves, con la stessa struttura, si chiama Peace Lily ed è stato associato, affiancato a Ariel Pink. Ma lo abbiamo nominato già tante volte, Errol Alkan, che ha anche una sua produzione discografica, e infatti quello che adesso ascoltiamo, insomma tenendocelo un po' sottofondo, è mix tra i due pezzi del suo ultimo singolo del 2018, Silver Echoes, seguito da Spectrum. Che poi si sente anche dalla qualità, non solo dal volume dei pezzi, ma le canzoni di Gin hanno proprio una qualità di suono grasso che, pur essendo più o meno lo stesso volume delle altre tracce, sembrano bassissime. E infatti è molto gratificante sentirlo con lo stereo della macchina andando in giro. È stato molto gradevole l'altro giorno. Appunto, parliamo della collaborazione con Errol Alkan. Dopo 10 anni, quasi 10 anni, si trovano in studio insieme per questo disco che è stato registrato tra la casa, appunto in questa località sperduta del Galles dove abita Sam con la moglie, la costa dell'Inghilterra del sud e la California. E Errol, in una doppia intervista per Dazed, racconta che Sam gli ha mandato la sua musica nuova dicendo: questo è il mio prossimo album, dimmi cosa ne pensi. E lui l'ha ascoltato e ha sentito talmente tanti suoni nuovi che è stato assolutamente conquistato, perché sentiva che Sam cercava nuovi modi per scrivere canzoni e nuovi modi per comunicare certe emozioni. Dice: è uno di quei dischi che al primo ascolto ricordi certi punti, ti rimangono in mente, ma poi hai voglia di riascoltare e ti accorgi di altre piccole cose in mezzo. E quindi è stato proprio Errol Alkan che ha detto: se vuoi coinvolgermi in qualche modo, io ci sono. E riguardo al tipo della loro collaborazione, a cosa li lega, e appunto, a parte aver passato tanto tempo in studio insieme, e c'è una specie di dialogo che si crea come tra amici o tra coppie. Quando uno finisce le frasi dell'altra e dice: il nostro rapporto è la versione musicale di questa cosa. Io e Sam, dice Errol, abbiamo un amore condiviso per musica insolita, esoterica, e possiamo sentire i riferimenti, e anche un suono molto semplice come un bongo, io posso sentirlo e posso sapere, capire, io capisco perché lui ha usato quel bongo. E Sam dalla sua dice: Errol è proprio su un livello completamente diverso. E dice, quando Errol interviene, dice: può essere fatto così, così, così, così, in 20 modi diversi. 20 modi possibili per trasmettere un certo umore, una certa sensazione. E lui sa con certezza tutte le cose diverse che possono essere combinate in una traccia e capisce esattamente come queste parti diverse possono andare insieme. Una tromba che suona come un bongo e un bongo che suona come una chitarra spagnola. Mm-hmm. E torniamo ad un altro pezzo di Gin, si tratta di una ballata. Siamo ancora nella prima metà, quando tutto è più o meno normale, tra virgolette. Open my eyes. Dei pezzi di cui ha parlato in una video intervista per una testata olandese, cui ha parlato del ruolo delle parole. Dice: io non sono uno di quegli autori molto basato sui testi, e invidio anche molto quando sento delle canzoni dove c'è una musica che è in un certo modo e invece la parte vocale va da tutt'altra parte. Se io fossi più legato al testo, alle parole, forse sarei capace di fare una cosa del genere, ma invece il mio uso delle parole nelle canzoni è solo come armonizzazione sopra la musica, come melodia. E quindi a volte lui, quando registra, borbotta delle cose, dice delle cose, che è successo anche nel caso di questo disco, che lui ha lasciato delle registrazioni in cui si sembra che dica quella parola, ma forse ne dice un'altra. E nel caso di questo pezzo era partito con il ritornello e poi ha dovuto costruirci intorno. Delicato, ma sotto si sente tipo un fuzz bass. E riguardo alla drum machine, Errol Alkan racconta: stavamo lavorando, il primo pezzo su cui abbiamo lavorato insieme era What Moves, e io ho detto: Sam, guarda che il BPM oscilla in un modo incredibile. E lui ha detto: ma sì, perché la drum machine. Altre persone avrebbero sistemato tutto, rendendolo tutto gestibile, mettendolo tutto nella griglia cui sono fornite le drum machine, no? Far riportare tutti i tempi alla precisione, la griglia dei software di audio editing. Perché lui dice, Errol Alkan dice, è più facile lavorarci sopra. Però mi piace molto invece il fatto che lui abbia scelto di lavorare senza questa griglia, perché ha creato le batterie con le sue mani, che fluttuano col BPM, che è la cosa che sarebbe successo se avesse suonato lui direttamente. Ma torniamo alla carriera dopo che Late of the Pier non hanno più prodotto niente. Nel 2010, come avevo iniziato a dire prima, Sam produce il singolo di debutto degli Egyptian Hip Hop e poi va in tour in Nuova Zelanda con Conan Mocassin come tastierista della sua tour band. All'uscita del primo disco con Conan Mocassin, Please Turn Me Into the Snat, che poi è ripubblicato come col titolo di Forever Dolphin Love, con cui insomma si è fatto conoscere anche lui. E questo è appunto Conan Mocassin dal suo ultimo album, che è del 2018, Just Busters. Con Was Impatient. In seguito a quel tour composero un album che però vide la luce solo 5 anni dopo, nel 2016. E c'è questa doppia intervista molto comica del 2016, appunto, su DIY, dove praticamente loro raccontano che sono conosciuti tipo più o meno nel 2006 e parlano di questa storia complicatissima, questo mistero che riguarda un maiale in vetroresina e dei microfoni rubati. E loro erano stati accusati di questo furto. E poi hanno fatto questo disco con il nome di Soft Hair, che è uscito appunto nel 2016, disco omonimo. Ma poi Late of the Pier hanno pubblicato il loro disco e quindi hanno avuto successo, e questa cosa è stata un po' abbandonata e tenuta segreta. Oh, I can take you out now, but if you don't cry, loving you. E finisce così, di colpo, Con Was Impatient, e torniamo a un altro pezzo di Gene dal titolo Sudden Thing. Probabilmente se l'ascoltassi ancora un po' di volte mi verrebbe in mente, perché c'è un passaggio strumentale che triste, desolante, molto familiare. hypnotized, a poison that finds a way to hear what the devil E negli anni successivi, dopo questo sodalizio con Mocassin, diciamo che Sam si dà un po' alla macchia, essendo comunque un tipo solitario, un po' eremita, che non sopporta, non vivrebbe mai in una città. E viaggia e passa anche tanto tempo in Groenlandia, dove fa degli esperimenti sonici, studia i fenomeni elettromagnetici, producendo diversi progetti segreti che appunto non sono stati divulgati. E lui dice: ma non è vero che insomma è meno soddisfacente o gratificante se tu una cosa non la rendi pubblica. Io sono contento di quello che ho fatto, ma il fatto che la gente non lo sappia non è che mi cambia tantissimo. E alla fine si stabilisce in questo paesino vicino Welshpool, appunto nel Galles, e riemerge a fine 2014 con questo pezzo molto bello, Ladies in Trouble with the Law. E annunciando un nuovo contratto discografico con la Domino Records e l'assunzione appunto dello pseudonimo La Priest. Never look back anymore. From one life to the next, I'll be gone different way. I never want to explain the things I didn't love. I was leaning back and turning up the keys, were in the windows were down, with the green light shining. I'm waking up, I'm shaken up by something loud. Or was it the sound? Nel ripresentarsi al pubblico cita l'influenza di anticonformisti pop come David Byrne, Prince e Arthur Russell, again. E all'inizio del 2015 pubblica un paio di singoli. Poi a fine giugno esce l'album di debutto dal titolo Ingi. Vide la collaborazione di Leon Vinehall in qualche pezzo, di Conan Mocassin in un pezzo, che poi appunto a posteriori si capisce che era già un pezzo fatto insieme nel 2011 e quindi poi ripubblicato nel disco di Soft Hair nel 2016. E poi la partecipazione di Romy Xeno, che è coautrice di due pezzi, una musicista di cui poi ha prodotto l'album di debutto, e uno dei due pezzi che ha scritto è questa, Ladies in Trouble with the Law, per un disco che ha suoni molto soul, funk, molto sensuali, e anche l'uso del falsetto, e quindi è questa qualità funk che lo avvicina a Prince. Questo ovviamente è Prince, When Doves Cry, Purple Rain, 1984. E l'album di debutto, come La Priest Ingi, è un album che vuole ridefinire il pop, o perlomeno è stato detto questo, di questo disco. Un disco sperimentale, spaziale, danzereccio, ma in modo bizzarro. E appunto in un'intervista a Vice, all'uscita del disco, lui appunto dice: infilo cacciaviti dentro cose finché non fanno suoni strani. Ma oltre a paragoni con Prince, Arthur Russell, anche con i contemporanei Hot Chip e Metronomy. E un articolo definisce la musica di Ingi Electro Lounge Funk for an Underwater Disco. Quindi musica elettro-funk per una discoteca sottomarina. E è un disco in cui ha anche usato dei suoni di registrazione in questo periodo passato in Groenlandia. Aveva tutti questi suoni, questi rumori emessi da un deposito unico al mondo, che solo in Groenlandia, di una roccia, un materiale che si chiama criolite. E lui li ha modificati, li ha campionati, creandoci delle linee di basso e dei suoni di synth. Insomma, un matto. E invece il titolo, Ingi, lui dice appunto anche... si fa anche riferimento al fatto di come gli vengono in mente i testi delle canzoni. Lui magari si astrae, ha in testa queste parole, e aveva in testa questa parola, e che ha vari significati, ha scoperto in varie lingue. In una lingua africana vuol dire macchine e piante, in una lingua dell'estremo oriente vuol dire zenzero, e in tibetano definisce l'occidentale in genere, un po' come gaijin in giapponese. Ma appunto la declinazione che lo attraeva di più era appunto a questo, relativo a macchine e piante, quindi questo desiderio di rendere organico quello che è meccanico. E siamo arrivati alla famosa seconda metà del disco. Dove questo rumore di pioggia, probabilmente appunto registrato dal vivo nel nord del Galles, dà inizio a Monochrome, e ciò ci porta anche a parlare un po' del concetto di sinestetico, di sentire, di immaginare dei suoni come dei colori, e ne ha parlato appunto sempre in questa video intervista con questa testata olandese. E lui dice: sì, magari in passato potevo immaginarmi una canzone come gialla, per esempio Bathroom Gargle dei Light of the Pier, che abbiamo sentito prima, era assolutamente verde e viola. mentre magari adesso è un po' più vago, magari un colore può fare da sfondo, tipo un cielo azzurro, una sfumatura. E quindi è come se appunto i primi pezzi, come abbiamo sentito, seguissero una struttura un po' più classica, e poi invece la seconda parte dà luogo a, cioè vede un ritorno a una sperimentazione estrema, tra l'altro questo suono e questo ritmo un po' sincopato anche se poi ascoltandola non c'entra tantissimo, mi ha fatto pensare a Mixomatosis da Hail to the Thief, il mio disco preferito di Radiohead. She cries, colors divide, and I won't sing anymore, give me monochrome. Vero anche questo modo di sinuoso, di far fare dei giri sinuosi alla sua voce. Ricordo, come Let of the Pier, primissimo Sylvian, uno dei grandissimi amori della mia adolescenza. E quindi è come se in questa seconda metà cioè prendere sopravvento alla sua macchina organica. Perché appunto, considerando le drum machine classiche troppo limitate, ha progettato la drum machine che potesse andare fuori tempo, che lui potesse far andare fuori tempo, o che andasse fuori tempo quando si riscalda. In modi sottili, Gin parla di idee come la creazione, la crescita e l'elasticità degli esseri umani. È un disco che chiede in un modo nuovo, sincero e genuino, si chiede se gli umani siano più macchina o più organismo e qual è la differenza. E questo uso creativo delle percussioni è anche un po' la cifra di Arthur Russell. Again, l'abbiamo sentito nella trasmissione scorsa relativamente a Westerman, dove c'è una grandissima somiglianza soprattutto a livello vocale, l'uso dell'eco, del riverbero. Invece adesso, a parte appunto essere una influenza dichiarata di Sam Inisgate, appunto anche per l'uso molto creativo del ritmo, magari non molti sanno che una dei tanti alias, perché poi è stato ha prodotto tantissimo, ha scritto tantissimo, era Dinosaur L, con cui ha pubblicato uno dei pezzi più famosi dell'era disco newyorkese underground. Lo pseudonimo era Dinosaur L, il pezzo era Go Bang. Ma questo invece è tratto da una delle molteplici, l'abbiamo detto anche l'altra volta, compilation di inediti uscite postume. Questa è Calling Out of Context del 2004, il pezzo è You and Me Both. You and me both. sure it's okay. We're feeling this good, and we can feel as good as we do. Won't we keep on moving? And kissing you, standing you, oh, you and me both. Avendo detto che insomma la chitarra è importantissima come strumento di composizione ed esecuzione, è il ritmo la base di tutto, e quindi ho detto sì, ma mi sentivo un po' in purgatorio dopo che avevo intrapreso questa cosa, doveva arrivare fino in fondo. E racconta in un'intervista proprio tecnicamente, parla del sequencer, della griglia, delle modifiche che aveva dovuto fare in modo di restituire un effetto umano al suono, ai ritmi, perché poi la drum machine ti sistema anche le imprecisioni, invece lui voleva che rimanessero un po' appunto come succede quando suona un batterista vero. Uno dei, anzi forse il singolo trainante del debutto in G, è quella a me più familiare, che ero sicura di aver messo in una trasmissione di Club to Club 2015 dove l'ho visto suonare, è questa. Titolo è Oino, O-I-N-O, che è O-I-N-O. Invece nella trasmissione Club to Club misi un altro pezzo dell'album, che era Lori Park. Questa l'avrei messa comunque, anche se noi mai TFM non ci piace magari ripetere gli stessi pezzi che abbiamo già messo, ma questa comunque era imprescindibile perché era uno dei singoli trainanti. Questo singolo è uscito il 4 febbraio del 2015. Non ho dei gran ricordi del suo live Club to Club. Mi ricordo che il setup è stato abbastanza laborioso, che forse lui non era molto contento, che forse aveva dei problemi tecnici, anche perché appunto suo desiderio dopo questo disco, dopo anni in cui non aveva più suonato dal vivo, voleva creare appunto un set live composto da questi elementi, un set biomeccanico. Forse infatti ricordo anche la presenza di alcune piante. We'll be right back. come era molto contento di poter ricominciare l'attività dal vivo a seguito dell'uscita di questo secondo album Gene, e poi il fatto che invece ci fosse il virus e il lockdown, dice sì, all'inizio mi sono dovuto appunto un po', cioè, arrestare, perché ero comunque carico con questa prospettiva di riprendere a viaggiare, suonare eccetera. Poi ho razionalizzato, ho pensato beh vabbè, continuerò semplicemente a fare quello che ho fatto fino adesso, cioè stare a casa. Tra l'altro nel frattempo è anche nato un figlio, è anche contento che appunto non ci sia la tutto il parentame che lo va a trovare. E dice, alla fine per molte altre persone, cioè, avevano già dei piani, dei progetti, erano già, sono dovuto proprio cambiare, stravolgere completamente la loro vita. Io invece continuo a stare a casa e fare quello che facevo prima. E infatti da casa ho anche pubblicato due video live, live from the shed, cioè live dal capanno, capanno di attrezzi, dove lui ha lavorato, dove ha costruito la sua macchina, pieno di cavi, di attrezzi, di strumenti. E ci sono due video di What Moves e Beginning. E diciamo che è stato anche un po', ho avuto anche un po' di sollievo, perché doveva fare un tour in America e da una parte era entusiasta, da una parte era un po' preoccupato, perché non pensava che appunto il setup a livello tecnico fosse così complesso, e era quindi un po' preoccupato che magari la performance live non venisse fuori tanto bene. Quindi diciamo che ha tirato un po' questo spiro di sollievo per il fatto di poter avere più tempo. E dopo Monochrome siamo sempre in territorio strano, c'è una linea melodica cantata, appunto anche cantato in questo falsetto ancora più falsetto, che è stato paragonato a quello di David Longstreth dei Dirty Projectors. Non ho scelto nessun pezzo perché non mi piacciono o non ci posso far niente. È quasi un pezzo quasi reggae, si chiama What Do You See? E di questo pezzo Sam dice, riguardo sempre ai colori, cioè forse questo qui è un pezzo dove ci sono tutti i colori del mondo, una mostruosità da questo punto di vista, e probabilmente quando lo farò dal vivo cambierà completamente, cambierà colore, cambierà tutto, ma questo è veramente un concentrato di qualsiasi sfumatura, qualsiasi colore. Ci riporta ai Soft Air, appunto al progetto con Conan Mocassin, e è casuale che sia il contributo successivo, perché ci eravamo arrivati dal punto di vista cronologico. E di quel disco Sam dice, l'abbiamo registrato tanto tempo fa che non mi ricordo neanche com'è che l'abbiamo registrato, ho tutto un misto di ricordi, mezze verità e bugie, ma poi il mistero è proprio il punto del disco, non è che cercavamo di fare niente in particolare, stavamo soltanto divertendo. E Conan commenta: ben detto. E eccolo il prodotto di questo divertimento, due dei singoli. Questa è Relaxed Lizard, seguita da Lying as a Stop. La colonna sonora di un film, però ci vogliono un sacco di soldi per fare dei film, non è così economico come fare musica, e quindi alla fine abbiamo deciso di farlo uscire. E a quel punto la domanda d'obbligo è: visto che vi chiamate capelli soffici, che balsamo usate? E il consiglio di Sam sui balsami è di evitare i parabeni. La vera domanda è: come hanno fatto a conoscersi nel 2006 uno neozelandese e uno del nord dell'Inghilterra? Infatti mi ricordo che quando è uscito questo disco, con l'immagine, l'estetica è terrificante. Delle immagini della musica, dei personaggi, quelli che io, mutuato da Olivia ormai da anni, definirei oltri, che significa fuori di testa, kitsch. Lying has to stop. Torniamo a Jean con Kissing of the Weeds. Che ha dei riferimenti musicali molto chiari. Questo è il pezzo successivo nell'album. L'abbiamo già citati prima. il riferimento prevedibile era ai Radiohead, nello specifico Thom Yorke. Che quasi un anno fa vedemmo a Ferrara per il tour del suo ultimo album, acclamatissimo come sempre, Anima. Questa è Impossible Notes. Per chi volesse cimentarsi con i suoni di Gene, The Machine, c'è proprio il sito Gene Machine, basta fare il login con Spotify e si può sperimentare come ha fatto abbondantemente Sam, che a 12 anni era un grande fan dei Beastie Boys, perché non avevano mai sentito nel nord dell'Inghilterra musica simile, anzi sì, dicevano che il rap l'avevano, l'hip hop l'avevano inventato loro, lui ci avrebbe creduto. E che come collaborazione da sogno gli piacerebbe appunto un musicista completamente diverso da lui, appunto magari uno che abbia una formazione classica, che sappia scrivere musica, tipo Mozart. È anche un grande fan dei Queen, Paolo sarà contento. Perché c'erano interviste con tutte domande stupide, tipo che musica metteresti in una cena, in una festa a casa, che musica metteresti quando sei triste, Prince, che musica metteresti se ti fai una canna, banale, Bob Marley, e che musica vorresti al tuo funerale, e lui dice tipo Deeper Underground di Jamiroquai, mentre callano la bara ovviamente. Gli chiedono anche cos'è che non deve mai mancare in camerino e lui dice di solito gli avocado, perché mia moglie mi chiede di portarglieli a casa. E quando gli viene chiesto ma in che contesto ti immagini o in che contesto vorresti che venisse ascoltata la sua musica, lui dice esperimenti scientifici diabolici. E come dicevo, anche il pezzo successivo, due pezzi di seguito, hanno grandissimo riferimento secondo me a Radiohead, Thom Yorke, questa è Black Smoke. questi suoni appunto organici, sembrano, non so, animaletti che, non so, che frugano un sottobosco umido. Però l'ispirazione per questa sua drum machine autocostruita è comunque quella di una esistente, una delle tante storiche Roland, ovvero la 909. Infatti lui, quando ci aveva 12-13 anni, gli piaceva tantissimo questo suono e dice: ma me la dovevo comprare allora e costava poco, mentre adesso è ricercatissima, costa 3-4 mila sterline. E ho fatto una ricerca di quali sono i suoni della 909 e ho trovato questo video su YouTube, che è la drum machine che è usata in God is a DJ dei Faithless come Vogue di Madonna, oppure Good Life, pezzo storico degli Inner City. E riguardo a questo desiderio di recuperare il naturale, l'organico, lui dice: io posso ascoltare musica digitale precisa e stare seduto in una stanza dove non ci sono piante e trovare comunque cose da fare e non sentirmi in trappola. E penso che sia così per molte persone, perché non abbiamo una reazione istintiva a questo essere separati dal mondo naturale. Io so che io mi ci trovo meglio nel mondo naturale e penso che sia meglio per la tua anima avere l'imperfezione del mondo naturale. Non so perché ci fa stare così bene, ma per qualche ragione ci mantiene sani. E siamo ancora in Black Smoke, c'è stato un cambiamento abbastanza deciso. Un po' che chi imputa a questa incoerenza uno dei difetti principali di questo disco, che nelle varie recensioni ha avuto comunque un 7 abbondante, dai 6 ai 8, non molte, è stato recensito da molte meno testate, perlomeno quelle considerate da Metacritic del debutto. Ma un'altra attività che ha fatto nel 2017 è stato quello di produrre l'album, abbiamo mezzo citato prima, di una delle sue coautrici, quello che lui ha definito un'autrice segreta, di cui non voleva rivelare il nome perché appunto stava, non la voleva far bruciare in qualche modo. E nel 2017 esce il disco omonimo con il nome di Xenoula. E questo è uno dei singoli, Luna Man. Highway, you're calling up out to sea. E dicevamo delle recensioni, Crack gli dà un 6, dice 5 anni dopo Ingi, il secondo lavoro di Eastgate prende il nome dal marchingegno analogico che ha costruito per rifuggire alla struttura e al rigore del drum machine standard, ma pur essendo un risultato ammirevole ci si chiede se ne sia valsa la pena dedicare tanto del suo tempo a questa impresa, visto che i pezzi migliori riprendono largamente gli strambi funk grooves di Ingi. C'è qualche momento brillante, ma appunto il difetto più grande è la mancanza di coerenza. Anche Mojo 6, Gin non è rilassante, ma mostra una notevole dedizione nel seguire le spirali della sua logica interna. Poi Uncut 7, materiale vivace, più stravagante, freakier del primo disco. Clash Mag 7, Gin the Machine, drum machine analogica su cui suoni è stato costruito il disco, collezione e selezione di suoni elettrizzanti, seppur incostante e sbilanciata. Suoni che saltano fuori da questo piccolo vaso di Pandora. Largamente fedele alla stramberia wonkiness di Ingi, tastiere, chitarre e batterie si sommano all'elettronica, mentre la coproduzione di Alkan fornisce una deliziosa energia mid-00s, cioè della metà del primo decennio degli anni 2000. L'album, come la drum machine omonima, è una creazione di grande cura e complessità ritmica, a volte sembra un test drive in cui si forzano i limiti per vedere cosa è in grado di fare, ma quando Eastgate riduce l'improvvisazione, produce sostanza e peso. E alla fine del 2017 se ne esce con una cosa assolutamente idiota, ovvero questo pezzo natalizio dove il nome non è la Priest, diventa la Wise Man, cioè la Re Mago. Si chiama All I Want for Christmas is Rock and Roll e vede, come in tanti altri contributi, video e anche la copertina di Ingi, la presenza della sua cagna Shmei. Ma è solo un pretesto per parlarci sopra. Un'altra recensione, il set di Flood, dopo Ingi, Eastgate desiderava un upgrade. Convinto che le strutture, i suoni che sognava non potessero emergere da strumenti già esistenti, si è messo a lavorare per mesi assemblando un'apparecchiatura speciale. Poi si parla dello scarto estremo che c'è nella seconda metà, in cui le chitarre vivaci sono sostituite da synth tetri. Ci sono momenti di genialità in questa parte più oscura, ma a volte l'eccesso di sperimentazione sfocia nell'autocompiacimento, indulgenza. Dove le prime canzoni hanno una forte struttura melodica e forte personalità, altre suonano incomplete, abbozzate e troppo curate allo stesso tempo. Quindi, disorientante, un po' troppo elaborato, però comunque gli dà un 7. Yes, all life brings you, it must take. All saints and sinners make mistakes. But have you tried the Christmas cake today? And we say, yeah, we say. It doesn't even matter if there ain't no snow. All I want for Christmas is rock and roll. It doesn't even matter if the stars don't shine. All I want for Christmas is a rockin' time. Dopo questo scherzetto natalizio arriviamo all'ultimo pezzo di chiusura di Gin, che tra l'altro è stata la prima registrazione usando Gin, e dice quando l'ho registrata non c'era neanche ancora il case, la scatola proprio. tutti i circuiti con delle robe attaccate. E quindi è più che altro uno schizzo, un abbozzo, un esperimento che lui ha voluto mantenere così. E il pezzo si chiama And No Love Affair. Quindi è come se si disfacesse tutto dall'inizio alla fine. Ma per me, per noi della redazione, sono un ascolto veramente gratificante. Un abbozzo, uno schizzo, tanto che la seconda metà di questo pezzo, quindi la seconda metà dentro la seconda metà, sono suoni, rumori vaghi. Un disco intrigante, dice Music OMH 7 e mezzo, che ti ricompensa lentamente ma che ti lascia un'impressione duratura. Sono d'accordissimo. C'è questa qualità inquieta nella scrittura di Sam Eastgate che rispecchia molto i tempi in cui viviamo, ma c'è anche un suono più chiaro, più caldo, più soul ad equilibrare. È The Line of Best Fit, da uno dei voti più alti. Dice come il suo predecessore, Gene fonde accessibilità parallelamente al non ortodosso. Con un'inventività e una ingenuità che spesso è una rarità. Anche Qmag 8 e poi All Music 8. Che dice Gene galleggia in una serie di canzoni presentate in modo gentile ma progettate in modo intricato. Ma dice che è più leggero e più accessibile del disco precedente e dà più spazio all'ascoltatore per perdersi. E finisce così. Davvero. Ciao da Claudia Maitimao.